sexy, molto di culto, senz'altro ha una predisposizione sia alla conversazione che a quello che è la gestione dell'immagine. Insomma, noi italiani siamo fashion e chiacchieroni, questo è un po' fondamentalmente la chiave di tutto. Grazie Marco Montemagno. Grazie a voi. Per trovarti il tuo sito? Marco Montemagno, scrivetelo su Google, mi trovate. Ecco, esatto, primo oppure secondo? In genere combatto con Montemagno il paese ormai da 10 anni. Male che non è Castelmagno, sì, perché lì sarebbe stata più dura con il formaggio. Grazie Marco Montemagno e a questo punto gli aggiornamenti sul traffico. Il riposo del guerriero. E in questa puntata dedicata ai viaggi ovviamente incontriamo anche il nostro gastronauta. Il gastronauta Davide Paolini, vabbè, il nome gastronauta, già il viaggio è lì all'interno, quindi non fai che questo, viaggiare, spostarti, conoscere. Sì, devo dire che credo che sia la cosa più affascinante, perché dico sempre che il viaggio non finisce mai, perché laddove finisce inizia un altro. E l'altro aspetto che a me piace del viaggio è che io viaggio per memorizzare, per ricordare. Se quando tu torni da un viaggio non hai ricordi, vuol dire che quel viaggio è non stato... C'è qualcosa che non ha funzionato. No, è stato veramente inutile. Quanti ti hanno detto vorrei fare il tuo mestiere? Tutti? Oh, tanti, tanti. Tanti mi hanno detto, mi dicono questo, però devo dire che quando c'è la parola già mestiere, la vita cambia. E allora quando non era un mestiere era più allegro, più divertente, perché non c'era un impegno e allora lo facevo veramente così, quando mi andava, quando diceva la luna era buona per me. Ora è molto diverso, però devo dire che fino a quando c'è la passione, Radio 24 nella dimostrazione, insomma, che è una passione, quindi se non c'è la passione alla fine finisce tutto. E il viaggio è la cosa più importante. Il viaggio per me è scoperta. Dico sempre che il cibo non è il fine ma un mezzo. Per me il fine è scoprire i territori, scoprire le persone, i personaggi, cosa c'è dietro a un prodotto, la storia, la tradizione di un territorio. Quindi il cibo non è la finalizzazione unica come molti pensano, è il contrario. È veramente stato un qualcosa, una chiave per me per scoprire dei mondi che altrimenti non avrei mai scoperto e che quindi diciamo per la mia vita è stato fondamentale. Ecco, quando vai all'estero, una curiosità, la tua colazione com'è? All'italiana oppure cambia? Perché spesso in albergo ti ritrovi un tipo di colazione che normalmente a casa non faresti mai, perché non siamo neanche abituati né attrezzati, e invece negli alberghi ti propongono le colazioni diverse, internazionali, e quindi magari ti viene voglia di mangiare la salamella, voglio dire, perché la trovi anche quella. Io ho visto addirittura il gorgonzola nel banco della colazione, che cioè inguardabile, io solo a vedere mi passa la voglia proprio di mangiare, eppure c'è qualcuno che lo fa. Ma io ti dico che io non amo il salato alla mattina non amo il salato, però devo dire che in tutto il mondo c'è qualcosa che ti salva. Ad esempio, che quando vai negli Stati Uniti, tutto sommato, il pane tostato con burro e marmellata ti salva molto. Su questo le spremute ti salvano. Io però cerco di adattarmi, ma non riesco a mangiare le uova la mattina scramble, oppure che ne so, l'uovo allo cocco lo bevo. Sì. Quindi ecco, questo mi salva perché mi piace da morire. E anzi, me ne berrei anche due o tre di uova. Cosa che però non faresti mai a casa tua. Ma credo. Qualche volta solo sull'uovo, sì, sul resto no. Perché io la colazione vario da mattina a mattina, nel senso che una mattina ho voglia di mangiare pane, burro, marmellata, un'altra mattina ho voglia di mangiare il muesli con il latte, un'altra mattina invece voglio prendere solo il caffè. Quindi sono molto variabile, però io riesco abbastanza adattarmi, anche alle varie cucine riesco ad adattarmi. Ecco, e tu cerchi anche il ristorante italiano se sei all'estero, o proprio lo cancelli completamente da tutto? Dunque, per curiosità, no, semplicemente. Dunque, io per principio lo cancello, però può anche succedere che vado a New York e voglio andare così a testare quello che viene considerato il miglior ristorante di New York di cucina italiana, sì, questo mi può capitare. Certo. Però io di solito i ristoranti italiani proprio li cancello. Devo dire che fino a qualche anno fa, in giro per il mondo, di ristoranti italiani dove si poteva mangiare erano veramente pochi. Anche insomma, perché è una questione di ingredienti, dipende che cosa arriva, no? Ma no, secondo me dipende, è di peso molto dalla nostra storia, come dipenderà per molti paesi extracomunitari oggi, nel senso che quando si arriva e si è costretti ad arrivare in un paese a cercare lavoro, ci sono delle forme di adattamento. fine 800, primi 900, l'emigrazione italiana negli Stati Uniti. Io tra l'altro ho scritto un saggio su questo, appunto sulla ristorazione italiana dei primi 900 negli Stati Uniti, assieme a due antropologi, e devo dire che la verità è che sono arrivati, appunto, arriva l'emigrante, deve sbarcare il lunario. Sì, deve trovare un mestiere. E molte volte anche uno che è arrivato, che faceva sempre il muratore, si inventa di fare il cuoco. Perché? Perché il piatto di spaghetti lo sa fare, il sugo è capace di farlo. Perché c'è la ricerca da parte della comunità di trovare qualcuno che gli dia un piatto. La pasta, la pasta addirittura, la pasta secca, non era conosciuta dagli emigranti il primo Novecento. Era conosciuta la pasta fatta in casa, ma non la pasta secca. La pasta secca era un qualcosa di molto caro allora. Si faceva la pasta più sofisticato. È evidente che non si fa la pasta, si fanno delle paste un po' strane, da cui sono nati alcune paste che in America vanno ancora alla grande, spaghetti con le polpette di carne, sì. No? Meatballs, le famose meatballs. Quindi sono nati perché questo piatto non esiste in Italia, però contemplava tutto. Se tu vai a vedere, era un piatto unico, vai a vedere è anche un mettere assieme un secondo con un primo. Magari uno si deve fare la polpetta e l'ha messo con gli spaghetti. Poi l'altra cosa interessante è questa, che se tu vai a vedere ancora molti menù che vengono così offerti nei ristoranti italiani in giro per il mondo, hanno degli errori clamorosi. No, ti mettono, non so, cotoletta alla veneziana e quindi capisci che non c'è una conoscenza, perché magari quell'italiano lì, la cipolla, quell'italiano lì è 50 anni che non è venuto in Italia. Certo. E questi sono stati senza scuola, senza altro. Oggi però sta cambiando molto perché sono arrivati anche dei professionisti, sono arrivati che i figli di questi immigranti che avevano la trattoria, che sono cresciuti, magari hanno fatto anche soldi, mandano i figli poi a studiare in Italia, a fare gli stage in Italia, quindi c'è sicuramente una crescita molto importante da questo punto di vista. Quindi si può mangiare anche meglio italiano all'estero rispetto al passato. Sicuramente negli ultimi anni si mangia decisamente meglio. Se gli volevo aprire una parentesi sulla pizza. La pizza come deve essere? Perché non si capisce più. La pizza ormai la fanno veramente tutti. Hai la tua ricetta, tuo pensiero. Io mangio solamente pizza tradizionale napoletana. Ecco, quindi quella col bordo alto. Col per bordo esempio, alto, col cornicione alto, con le acciughe, con il pomodoro. Pomodoro vero. Ecco, perché anche quello l'ha passata all'estero spesso, il pomodoro è la passata di pomodoro o il concentrato addirittura. Il problema è, sai, che anche molti pizzaioli, l'80% dei pizzaioli ormai usa dei piatti, delle cose già pronte, quindi il pomodoro già pronto, non è che se lo prepara. Sì, certo. Anch'io molte volte vado in certe pizzerie che sono buone, però mi rendo conto che non tutto è così perfetto. Però, sai, ora c'è l'STG, che sarebbe specialità territoriale garantita, che prevede un disciplinare sulla pizza napoletana. E io ho molto sorriso su questo, perché mi chiedo come a Milano si possa avere l'olio campano, si possa avere il pomodoro San Marzano, tutto. Però lì ci sono delle indicazioni ben precise come fare la pizza col cornicione, con una lievitazione che deve essere minimo di 6 ore. Ecco, io credo che questo sia fondamentale. Oggi ci sono delle pizze sofisticatissime, c'è gente che fa lievitazione di 24-48 ore, quindi ci sono dei pazzi oggi della pizza in giro per il mondo. Ce ne sono alcuni che la fanno con le farine le più pregiate, con lievitazione, appunto, come ti dicevo, questo, pomodori molto scelti. Quindi c'è una dicotomia, ormai ci sono pizze, se vogliamo, veramente terra a terra, e ci sono delle pizzerie straordinarie che costano anche care. Ovviamente, mozzarella, fior di latte o bufala? Dunque, la bufala fa acqua. Quindi la bufala bisognerebbe, mi hanno spiegato dei pizzaioli maestri, che bisognerebbe prima passarla al forno per asciugarla. Sì. E quindi sicuramente forse è molto meglio fior di latte. Infatti io mi faccio impazzire, perché a me piace il calzone con la bufala, ma non si può fare perché fa troppa acqua. Per farlo è complicato. Se te lo passassero ad asciugarlo sul forno, a me il calzone piace con la ricotta. Ah, quindi il tradizionale, quello che si chiama alla romana. Sì, io il calzone con la ricotta, secondo me è straordinario. Se poi fosse ricotta di bufala sarebbe ancora meglio. Però bisogna accontentarsi, perché sicuramente la pizza ormai è diventata, cioè non è più una tradizione nostra, è uno di quei cibi, di quei piatti che secondo me sono senza passaporto, sono apolidi. L'hamburger, la pizza, la baguette francese, insomma, sono quelle cose che ormai sono nostre per ormai tutto il mondo, tant'è vero che la più grande catena di pizza al mondo è americana. Ecco, senti, l'ultima battuta sempre sul vino che ti voglio fare: all'estero, rigorosamente, i vini di quale nazionalità? Ma sai, su questo, se vado in un paese che non produce vino come la Grancia, ultimamente ho letto che c'è un grande vino in Gran Bretagna, però insomma in Gran Bretagna ce ne sono pochi, anche in Giappone io ho bevuto un vino giapponese bianco a Kobe che non era male, però sinceramente se devo bere delle ciofeche, insomma magari mi vedo la carta, il problema è se ci sono degli ottimi vini italiani o francesi o cileni o argentini o australiani o della Napa Valley, quindi all'estero uno bisogna che si sappia un po' regolare in base alle conoscenze che ha di vini che non sono locali. Ecco, quindi insomma si può, lì in quel caso è meglio anche scegliere. Beh, se uno va alle Maldive o non so dove. Non saprei, infatti, il vino della casa mi spaventa. Se vado in Sudafrica ci sono vini straordinari sudafricani, bevo sudafricani. Se vado in Australia bevo australiani. Se vado in America cerco di bere Napa Valley. Però insomma non tutto il mondo produce vino. Ecco, il famoso vino della casa. Beh, il vino della casa all'estero sicuramente non lo bevo. Ecco, per forza. Cioè mi rifiuto di berlo. Non so neanche se ce l'hanno, se ce l'avranno. Bah, sicuramente nelle zone che si produce, dove si produce vino, sì. Beh, in Italia se vado da un oste della Malora, da quel famoso, da quel famoso libro prodotto da uno scrittore toscano, una bella battuta questa, e sinceramente mi posso anche fidare se mi dice questo. Ma ce ne sono, io qualche volta in alcuni posti, ce n'è uno anche a Milano, dove mi piace bere il vino della casa perché so che c'è un'ottima scelta. Questa è una bella cosa, insomma, ma meno male, perché credo che stia cambiando in meglio anche questo atteggiamento da parte dei ristoratori. Io credo molto, io penso che sicuramente, visto i prezzi, vista la situazione economica, si tornerà abbastanza ai vini sfusi. Però vini sfusi bisogna stare molto attenti, perché le sofisticazioni sono molto più alte che i vini in bottiglia, per cui bisogna avere fiducia, molta fiducia, come sul pesce. Sul pesce crudo bisogna avere molta fiducia sul ristoratore. Allora, cerchiamo di prenderla questa fiducia. Grazie Davide, ci sentiamo ovviamente la settimana prossima. Alla prossima. Il riposo del guerriero. E in questa puntata estiva del riposo del guerriero non può mancare comunque il nostro Fables. Ciao, buongiorno. Ciao Stefano, buongiorno. Parliamo quindi di guerriglia marketing e lo facciamo oggi cercando di andare a scoprire quali sono state le campagne dedicate al sociale, campagne che hanno fatto discutere ovviamente gli internauti, ovvero le persone che usano navigare in rete. Sì, esattamente. Allora, guarda, la prima di cui ti parlo è accaduta in Canada ed è un'operazione lanciata da un programma televisivo della TV canadese, il canale TVA. Sì. Ed è un programma che si chiama Testato sugli umani. Che cosa vediamo? Qui siamo all'interno di un centro commerciale, un normalissimo centro commerciale pieno di gente, ognuno che fa insomma il suo dovere. A un certo punto che succede? Una persona inizia ad allacciarsi una scarpa vicino ad un cassonetto dei rifiuti, poggiando a terra una bottiglia di plastica. Ecco, quindi tutto questo si vede in questo video, ovviamente. Sì, in questo video. Ma come se fosse tipo una telecamera nascosta. Esatto, okay. Come se fosse una telecamera che riprende la scena dall'alto di questa persona che si siede, insomma, si allaccia la scarpa e lascia la bottiglia. Sì. A un certo punto iniziano a passare varie persone e nessuno si accorge della bottiglia, nessuno la raccoglie. Fino a che arriva una ragazza che appunto si scende per prendere la bottiglia, la poggia nel cassonetto dei rifiuti e improvvisamente tutti quelli che sembravano assolutamente strani alla vicenda si mettono un berretto arancione in testa e cominciano a festeggiare, quasi ad osannare la ragazza perché ha appunto fatto questo. Andrebbe bene per Napoli una cosa del genere, no? Quindi chi individualmente si mette a tipo a portare il proprio sacchetto da qualche parte, non si può fare ovviamente. Tra l'altro ci sono anche dei video che cercano di sensibilizzare anche proprio la città per quanto sia importante la raccolta differenziata e comunque la raccolta in generale, insomma potrebbe essere una bella idea questa. Quindi per far capire che è necessario buttare le cose nei cassonetti, esatto, nei punti anche, giusti. Sì, esatto, in particolare sul corretto riciclaggio dei rifiuti. In particolare, ecco, mi fa un po' sorridere che siano stati i canadesi a farlo, che pensiamo sì. Sicuramente popolo estremamente attento a queste problematiche. Sì, attento a queste problematiche, magari ce le immaginiamo anche come un popolo magari, non so, meno caloroso. Invece, se vai a vedere questo video, vedi veramente delle scene di festa molto, molto divertenti. Tra l'altro anche persone che scendono dalle scale mobili, anche loro hanno i cappelli arancioni ed esultano verso la È incredibile come comunque abbiano dovuto aspettare prima di trovare qualcuno che si accorgesse della bottiglia. Infatti, vedo ogni tanto nel video che si vedono alcune facce di alcuni presenti che cercano di capire, ok, forse sarà il prossimo, no, questo neanche l'ha presa, fino ad arrivare appunto a questa ragazza che tra l'altro rimane anche un po' imbarazzata perché giustamente certo, trova un intero centro commerciale che festeggia, lo saremmo tutti. Bene, questa è una molto interessante, potremmo prenderla in prestito. Poi un'altra molto, secondo me, veramente molto divertente, avviene invece ci viene dall'Australia. Precisamente dallo stato di Victoria, dove ogni anno si dice che ci sono il 30% di incidenti stradali mortali dovuti all'alta velocità. Sì. Una percentuale altissima, lo stato che ha la percentuale più alta di questi incidenti in tutto quanto il paese. Che è successo? Che dalla piccola cittadina di Speed, nello stato di Victoria, è partita una sorta di provocazione. Vale a dire, se la nostra pagina su Facebook con nome Speed raccoglie i 10.000 fan in un mese, 10.000 iscritti alla nostra pagina in un mese, noi cambiamo il nome della città da Speed a Speed Kills. A Speed come? Scusami? A Speed Kills, la velocità uccide. Ah, speed ok, kills. Ah, ho capito, ok, Speed okay. Kills. Che succede? Che tra l'altro questa piccola, la curiosità è che questo piccolo paesino in realtà ha 47 abitanti. Presto però la notizia inizia in qualche modo a diffondersi, sta di fatto che dopo soltanto 2 settimane dall'apertura della pagina gli iscritti arrivano a 21.000. Sì. Attualmente ce ne sono 35.000. Che succede? Che naturalmente loro per 2 mesi cambiano il nome della città in Speed Kills. Sì. E la curiosità vuole che anche un piccolo contadino locale che si chiamava Speed Phil ha dovuto cambiare il nome in Phil Slowdown. Phil vai piano. Cioè, esatto, Phil rallenta, ecco, Phil questo rallenta, è il senso. Piano, certo. Esattamente. E quindi è una notizia molto semplice che però, partendo con una semplice provocazione, è riuscita comunque sia ad attirare l'attenzione verso una tematica sociale. Certo, ma in un paese di 47 persone. Ecco, è davvero interessante. Ma in Italia abbiamo degli esempi oppure proprio queste cose un po' ce le scordiamo? Guarda, sui riguardanti tematiche sociali sì, sicuramente ci sono attività che però, ecco, attualmente non riescono ancora, secondo me, a sfondare, se vogliamo, quella soglia di attenzione tale per cui riesce ad ottenere, non so, per esempio le prime pagine dei giornali. Ovviamente abbiamo tutte le campagne strepitose che fanno Greenpeace piuttosto che il WWF per quanto riguarda le varie sezioni italiane. Per esempio, non so, ricordo quella che aveva fatto Greenpeace per andare contro, diciamo, la deforestazione delle foreste pluviali per la produzione del KitKat da parte della Nestlé. Sì. E lì era una campagna che era partita dall'Italia e faceva vedere praticamente una normale situazione da ufficio. A un certo punto una persona, per farsi il suo famoso break con lo snack, andava appunto a spezzare, ad aprire la confezione, ma all'interno non c'erano le barrette di cioccolata, ma c'erano delle dita di orango. Sì, esatto. Quindi una scena anche molto, molto forte, tant'è che questa persona andava poi a spezzare, a mangiare questa dita di orango da cui usciva appunto del sangue finto, insomma, quindi una scena molto forte. E quella era una campagna che era partita dall'Italia e poi, insomma, era stata tradotta nelle varie lingue per diffonderla poi in Europa. Un'altra campagna molto interessante, sempre di Greenpeace italiana, era stata fatta per esempio ultimamente con quella installazione bellissima che hanno fatto al Circo Massimo con circa, mi sembra, 2500 croci. Sì. Erano state posizionate all'interno del Circo Massimo per andare a sensibilizzare le persone sulle morti che c'erano state in Giappone per il terremoto, insomma. Insomma, qualcosa, insomma, si è mosso anche da noi. Chiaramente sì, poi sì, ci arriveremo sempre più, vedremo poi l'anno prossimo se l'Italia si porterà avanti da questo punto di vista, ovvero usare l'internet e in generale il guerriglia marketing per fare comunicazione, in questo caso sociale. Grazie Fable, ci sentiamo grazie ovviamente la settimana prossima. Ciao. E continuiamo a parlare di sociale con qualche iniziativa che voglio indicarvi, qualcosa da fare nel mese di agosto. Ce ne sono veramente moltissime di iniziative in giro per l'Italia, noi ne abbiamo scelta qualcuna. Per esempio ce n'è una che continua fino al 15 agosto, siamo a San Felice del Benaco in provincia di Brescia, al Palazzo Ex Monte di Pietà, dove l'arte viene vissuta come terapia, quindi l'arte è capace di curare e mettere in comunicazione sani e ammalati. Innovativa visione dell'arte che dà vita a un progetto chiamato Antonio Stagnoli Arte e Scienza. Poi voglio indicarvi l'11 agosto a Gandino, in provincia di Bergamo, Francesca Minutoli con Voci di Donne, lettura con musica dal vivo. Siamo al Parco Comunale a Cirano di Gandino. E ancora ci sono molte cose da segnalare, per esempio un'altra bella iniziativa, siamo nella notte di San Lorenzo il 10 agosto a Venezia, anche quest'anno con Calici di Stelle, quindi un evento dedicato alla degustazione dei vini di qualità della regione Veneto, poi menù a tema, concerti, mostre, passeggiate e molte altre iniziative che ovviamente saranno accompagnate dagli occhi sempre rivolti verso il cielo, proprio perché è la notte di San Lorenzo. Poi ancora la festa del bue di Cento, tra l'altro viene fatta per raccogliere fondi per l'UNICEF, c'è il sito internet che potete andare a consultare, che è www.festadelbue.com. E ancora, questa volta passiamo in Puglia, voglio indicarvi fino al 9 agosto in Piazza del Popolo a Carpino in provincia di Foggia il Carpino Folk Festival. Riposo del guerriero. Nell'amore io che fino a ieri sono stato straniero, oggi sono il guardiano del suo sogno più vero. La chiedo a morire. L'amore è un gigante che abbatte castelli, ma in un soffio di vento ne crea di più belli, come se fosse niente, la chiedo a morire. E quest'ultima parte del Riposo del Guerriero, versione estiva, è dedicata al mondo dei videogiochi e quindi voglio parlarvi dei titoli più interessanti che sono usciti quest'anno. E partiamo da un gioco sviluppato in Canada e che parte dalla passione per l'Italia e la sua storia. Un gioco che ha raccolto milioni di consensi in tutto il mondo. Un gioco che racconta la realtà del Rinascimento per trasformarla in fantasia dei giorni nostri. Un gioco che è diventato anche un romanzo di successo. Un gioco che vi trasformerà in assassini. Ora sei tu il capo degli assassini. Riunisciti, Ezio Auditore, e riconquista Roma. Assassin's Creed Brotherhood è il terzo episodio della saga di Assassin's Creed e voi vestite come sempre i panni del 25enne Desmond Miles, rapito dalle Asbergo Industries per essere sottoposto a strani esperimenti condotti attraverso un macchinario chiamato Animus, in grado di farvi rivivere le gesta dei suoi antenati grazie alla lettura del DNA. Credo che nessuno a questo mondo si aspetti di svegliarsi un mattino e ritrovarsi nel bel mezzo di una guerra fra due organizzazioni segrete. Non io, almeno. Ma eccomi qua. Da un lato ci sono i Templari. Vogliono controllare ogni cosa. Politica, economia, tecnologia. Non si fermeranno finché non ci avranno soggiogati tutti. Letteralmente. Contro di loro si battono gli Assassini, un gruppo votato alla difesa del libero arbitrio dell'umanità. Io sono nato nella confraternita. Ma è col secondo episodio, Assassin's Creed 2, che il gioco incontra il suo destino fortunato. Il direttore del progetto, infatti, Patrice Desilets, ha occasione di trascorrere del tempo in Italia e resta affascinato da città come Firenze, Venezia, Roma e si appassiona ovviamente al nostro Rinascimento. Scopre che un insegnante universitario italiano, Marcello Simonetta, è residente negli Stati Uniti e ha scritto un saggio, L'Enigma Montefeltro, che, partendo dalle lettere ritrovate del suo antenato Cicco Simonetta, segretario di Francesco Sforza, parte da Milano per raccontare la vera storia della congiura dei pazzi che avvenne nella Firenze del 1478 per cercare di stroncare l'egemonia dei Medici. Il secondo episodio di Assassin's Creed si svolge proprio in quel periodo e parla proprio di quei fatti. Sono ritornato nell'Animus. Ora sto rivivendo i ricordi di Ezio Auditore da Firenze, un mio antenato del Rinascimento, alla ricerca di una via da seguire. Grazie all'effetto osmosi sto diventando un assassino non soltanto di nome. Mi chiamo Desmond Miles e questa è la mia storia. torniamo a parlare di Assassin's Creed Brotherhood, dove Desmond si introdurrà ancora nell'Animus per continuare a rivivere la storia del suo antenato fiorentino Ezio, e questa volta il suo viaggio lo condurrà nella città eterna, Roma, centro di potere, cupidigia e corruzione, per colpire dritto al cuore del nemico, Cesare Borgia. In grado di reclamare ciò che le appartiene per diritto, capace di guardare la morte negli occhi, è abbastanza carismatica da radunare un esercito inarrestabile per conquistare l'Italia intera. Se voglio vivere, vivo. Sì, voglio prendere. Prendo! Ma per sconfiggere la atavica corruzione dei tiranni non basterà ricorrere alla forza. Ezio sarà a capo di un'intera confraternita e dovrà dimostrare le sue capacità di comando. E solo unendo le proprie forze gli assassini sconfiggeranno i loro nemici naturali. Assassin's Creed è un titolo che mette insieme storia, realtà e finzione, completamente doppiato in italiano, ha una grafica direi spettacolare che riesce davvero a far rivivere la Roma del Cinquecento da tutti i punti di vista, i monumenti, gli usi, i costumi. Incontrerete Da Vinci, che progetterà macchine belliche realmente immaginate da Leonardo, e ancora Machiavelli, Cesare Borgia ovviamente, Caterina da Forlì. Insomma, un gioco che richiede prontezza di riflessi, ma anche ragionamento e astuzia, e che per questo piacerà moltissimo anche a chi non è appassionato. Se mai incontrassi un uomo simile, e se mai quell'uomo entrasse nella mia città, saprei benissimo come accoglierlo? E dopo Assassin's Creed Brotherhood continuiamo parlando di numeri. I numeri, Mesua, cosa significano? Da non so niente di nessun numero. Impossibile, perché Call of Duty Black Ops, l'ultimo titolo della serie Call of Duty, ha conquistato cifre inimmaginabili. Innanzitutto, la serie Call of Duty è forse la più popolare serie di videogiochi sparatutto in prima persona, ovvero un genere di giochi dove lo scopo è quello di proseguire le varie missioni sparando ai nemici, difendendosi quindi dagli attacchi e osservando la scena sempre in soggettiva. Di conseguenza, quello che vedete sullo schermo è ovviamente quello che sta guardando il personaggio che interpretate. Prodotta da Activision, la serie Call of Duty ha raggiunto spesso le vette delle classifiche mondiali di videogames, ma quest'ultimo episodio, Black Ops, Guerra Fredda, ha stabilito record impressionanti. Pensate che i giocatori di Black Ops messi insieme formerebbero il terzo stato più grande degli Stati Uniti d'America, e a Natale del 2010, cioè circa due mesi dopo l'uscita del titolo, Black Ops è stato giocato per oltre 600 milioni di ore, equivalenti a 68.000 anni. Ma veniamo alla trama di Call of Duty Black Ops. Una menzogna è sempre una menzogna. Solo perché la scrivono su carta e la chiamano storia, non si trasforma in verità. Viviamo in un mondo dove vedere non significa credere. Dove solo pochi sanno quanto sia veramente accaduto. Viviamo in un mondo dove tutto ciò che sapete è una menzogna. E in effetti anche la trama del gioco per molti aspetti è inventata, anche se si basa su alcuni fatti storici reali. Il 25 febbraio 1968 l'agente Alex Mason è legato a una sedia in una sala interrogazioni. E piuttosto intontito l'agente, che siete voi, non riesce a capire il luogo dove è tenuto prigioniero. Intorno a lui una serie di monitor rigorosamente in bianco e nero e una voce che lo bombarda di domande e di scariche elettriche su tutto il corpo. E la voce misteriosa vuole sapere a tutti i costi dove si nasconde una stazione radio fantasma. Svegliati! Sveglia! Dove sono? Dov'è Reznov? Ora risponderai alle nostre domande, hai capito? E tu che c***o sei? Non è importante, quello che importa è chi sei tu. Vaffanc***o! Dove sei nato? Baciami il c***o! Il tuo nome è Alex Mason. Sei nato a Fairbanks, in Alaska. Nel 1961 hai fatto parte di una squadra di assassini della CIA conosciuta come Operazione 40. Giusto? È giusto o no? Sì. Dov'è la stazione radio? Non so di cosa stai parlando. I numeri, Mason. Cosa significano? Da dubbi. Non so niente di nessun numero. E Dragovic, lui te lo ricordi? Dici quello che vogliamo e non ti succederà nulla. Cominciamo dall'inizio. Cuba 1961, la Baia dei Porci. Sappiamo che eri lì. No. Non prenderti per il culo, Meso. Lo capisco quando menti. 61, Baia dei Porci. Che è successo? Ci hanno sterminati. È inutile mentire, Meso. Sappiamo che sei andato lì con Woods e Bowman. Woods. Dragovic, ti ricordi di Dragovic? Castro, eravamo lì per ucciderlo. Già, uccidere Fidel Castro, questa è la prima missione e ci riuscirete, ma avrete una sorpresa. In Black Ops l'azione si svolge in 14 ambienti straordinariamente ricostruiti, dalle ville cubane alle raffinerie d'uranio russe, dalla ricostruzione dell'Havana a una base missilistica segreta. Ogni ambiente è legato sia a una delle missioni che dovrete affrontare per arrivare alla fine della storia, sia per giocare a una delle modalità multigiocatore, ovvero un gioco a squadre con giocatori in carne e ossa sparsi per il globo e uniti attraverso la connessione internet. Ed è proprio la modalità multigiocatore la forza di un titolo come Black Ops. L'esperienza singola, infatti, non può certo darvi l'emozione di una partita contro i vostri amici reali che studieranno strategie per cercare di sopravvivere ai vostri assalti. Una curiosità, al lancio del gioco, la prima partita multiplayer internazionale è stata vinta da un ragazzo italiano, Marco Viola. Consigliato a un pubblico maggiorenne o maggiore di 16 anni per la versione Nintendo DS, Call of Duty Black Ops è bellissimo da giocare e da guardare anche in modalità 3D, con TV o computer che supportano questa tecnologia. È tutto anche per questa puntata del Riposo del Guerriero, grazie come sempre a Viola Bottoni, a Giorgio De Luca in redazione, alla regia di Paolo Corleoni, a voi per l'ascolto. Ascolto, ancora buona domenica da Stefano Gallarini.